Sezione ventitreesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ventitreesimo. Come l'augello intra l'amate fronde, posato al nido dei suoi dolci nati, la notte che le cose ci nasconde, che per veder gli aspetti desiati e per trovar lo cibo onde li pasca, in che i gravi labori gli son grati, previene il tempo in sull'aperta frasca, e con ardente affetto il sole aspetta, fiso guardando pur che l'alba nasca. Così la donna mia si stava eretta ed attenta, rivolta in ver la plaga sotto la quale il sol mostra men fretta, sicché veggendola io sospesa e vaga, fecimi quale è quei che disiando altro vorria e sperando s'appaga. Ma poco fu tra uno ed altro quando del mio attender dico e del vedere lo ciel venir più e più rischiarando, e Beatrice disse: ecco le schiere del trionfo di Cristo e tutto il frutto ricolto del girar di queste spere. Parvemi che il suo viso ardesse tutto e gli occhi avea di letizia si pieni che passar mi convien senza costrutto. Quale ne pleniluni sereni Trivia ride tra le ninfe eterne che dipingono il ciel per tutti i seni, vid'io sopra migliaia di lucerne un sol che tutte quante l'accendea, come fa il nostro le viste superne, e per la viva luce trasparea la lucente sustanzia, tanto chiara nel viso mio che non la sostenea. O Beatrice, dolce guida e cara, ella mi disse, quel che ti sobranza è virtù da cui nulla si ripara. Quivi è la sapienza e la possanza, ch'aprì le strade tra il cielo e la terra, onde fu già si lunga disianza. Come fuoco di nube si disserra per dilatarsi, sì che non vi cape e fuor di sua natura in giusta terra, così la mente mia tra quelle d'ape fatta più grande di se stessa uscio e che si fesse rimembrar non sape. Apri gli occhi e riguarda qual son io. Tu hai vedute cose che possente s'è fatto a sostener lo riso mio. Io era come quei che si risente di visione oblita e che s'ingegna in danno di ridurlasi alla mente. Quand'io udì questa profferta degna di tanto grado che mai non si stingue del libro che il preterito rassegna, se mo sonasser tutte quelle lingue che Poligna con le suore fero del latte lor dolcissimo più pingue per aiutarmi, al millesimo del vero non si verria cantando il santo riso, e quanto il santo aspetto facea mero. E così, figurando il paradiso, convien saltar il sagrato poema, com'uom che trova suo cammin reciso. Ma chi pensasse il poderoso tema e l'omero mortal che se ne carca non biasmerebbe se sottesso trema. Non è pileggio da picciola barca quel che fendendo va l'ardita prora, né da nocchier ch'a se medesmo parca. Perché la faccia mia si t'innamora che tu non ti rivolgi al bel giardino che sotto i raggi di Cristo s'infiora? Qui vi è la rosa in che il Verbo divino carne si fece, e qui vi son li gigli al cui odor si prese il buon cammino? Così Beatrice. Ed io, da suoi consigli tutto era pronto, ancora mi rendei alla battaglia dei debili cigli. Come a raggio di sol, che puro mei per fratta nube, già prato di fiori vider coperti d'ombra agli occhi miei, vid'io così più turbe di splendori, fulgurati di su di raggi ardenti, senza veder principio di fulgori. O benigna virtù, che sì gli imprenti, su t'esaltasti per largirmi loco agli occhi lì che non eran possenti. Il nome del bel fior ch'io sempre invoco e mane e sera, tutto mi ristrinse l'animo ad avvisarlo maggior foco. E come ambo le luci mi dipinse il quale e il quanto della viva stella che lassù vince come qua giù vinse, per entro il cielo scese una facella formata in cerchio a guisa di corona e cinsela e girosse intorno ad ella. Qualunque melodia più dolce suona qua giù e da sé più l'anima tira, parrebbe nume che squarciata tuona, comparata al sonar di quella lira onde s'incoronava il bel zaffiro del quale il ciel più chiaro si zaffira. Io sono amore angelico che giro l'alta letizia che spira del ventre che fu albergo del nostro disiro, e girerommi, donna del ciel, mentre che seguirà il tuo figlio e farai dia più la spera suprema perché lì entre. Così la circulata melodia si sigillava e tutti gli altri lumi facean sonar lo nome di Maria. Lo real manto di tutti i volumi del mondo che più ferve e più s'avviva nell'alito di Dio e né costumi avea sovra di noi l'interna riva tanto distante che la sua parvenza là dov'io era ancor non m'appariva. Però non ebber gli occhi miei potenza di seguitar la coronata fiamma che si levò appresso a sua semenza. E come Fantolin, che inver la mamma tende le braccia poiché il latte prese, per l'animo che infin di fuor si infiamma, ciascun di quei candori in su si stese con la sua cima sì che l'alto affetto che avieno a Maria mi fu palese. Indi rimaser lì nel mio cospetto, regina cieli, cantandosi dolce, che mai da me non si partì il diletto. Oh, quanta è l'ubertà che si soffolce in quell'arche ricchissime, che foro a seminar qua giù bone bobolce. Quivi si vive e gode del tesoro che s'acquistò piangendo nell'esilio di Babilon, ove si lasciò l'oro. Quivi trionfa sotto l'alto figlio di Dio e di Maria di sua vittoria, e con l'antico e col nuovo concilio colui che tien le chiavi di tal gloria. Fine del canto 23.